14 maggio. Oggi me ne sto a scrivere sulla veranda con le tre bambine che mi ronzano attorno scatenate, insistenti più delle zanzare. 30 piccole dita che si infilano dappertutto, finendo anche nel calamaio, ma le cui proprietarie sono state consolate persino quando avrebbero meritato una ramanzina. Come si fa a rimproverare tre cuffiette tanto mogie e contrite? Non vedo altro che un turbinio di cuffiette, grembiuli e calzette nere che corrono di qua e di là. Le tre bimbe, la loro paziente bambinaia, io, il giardiniere e il suo aiutante, siamo le uniche persone che entrano nel mio giardino, ma neppure ne usciamo mai, devo dire. Il giardiniere è qui da un anno e il primo di ogni mese si licenzia. Finora sono riuscita tutte le volte a convincerlo a restare. Anche 2 settimane fa si è presentato e con espressione determinata ha annunciato che a giugno se ne sarebbe andato. La decisione era presa e nulla avrebbe potuto cambiarla. Secondo me di giardinaggio non ne capisce molto, se non altro è capace di zappare e annaffiare, e alcune delle cose che semina poi spuntano, così come crescono alcune delle piante che mette a dimora. Inoltre non conosco nessuno che possiede una tale costanza e solerzia nel lavoro, unite a una totale mancanza di curiosità per quello che facciamo in giardino. Per questo ho cercato di trattenerlo, non so come possa essere colui che lo sostituirà. Una volta gli ho chiesto cosa avesse da lamentarsi e lui mi ha risposto nulla. Perciò ne ho concluso che ce l'aveva con me a causa della mia eccentrica predilezione per le piante disposte in gruppo piuttosto che in filari. E forse non gli piacciono nemmeno i libri di giardinaggio che a volte gli leggo mentre pianta o semina varietà nuove. Pensavo che essendo io stessa inesperta, fosse più semplice portare il libro da lui invece di spiegarglielo, così avrebbe attinto alla fonte del sapere a piccoli sorsi mentre lavorava. Mi rendo conto di averlo irritato con il mio comportamento, ma solo l'ansia di non perdere un anno intero per via di uno stupido errore mi ha dato il coraggio di farlo. A volte, nascosta dietro al libro, mi viene da ridere della sua espressione disgustata e vorrei che ci scattassero una fotografia per poterla rivedere tra 20 anni, quando il giardino sarà un tripudio di bellezza e io avrò imparato a conoscerlo a fondo. Così mi ricorderei dei miei primi felici sforzi e dei fallimenti. Per tutto il mese di aprile il giardiniere ha piantato le piantine perenni che avevamo seminato in autunno, andandosene in giro con un lungo pezzo di spago a tracciare linee parallele lungo le bordure. Linee di un'esattezza meravigliosa che irreggimentano le poverine come soldati in parata. Un giorno, mentre ero via, ha fatto due lunghe bordure e quando gli ho spiegato che la terza l'avrei voluta con piante raggruppate e non in fila, perché preferisco un effetto naturale senza che si vedano chiazze di terra, ha assunto un'espressione ancora più cupa e disperata del solito. Dopo sono andata a controllare e ho visto che aveva piantato ai lati di un vialetto dritto due file composte di 5 piante in sequenza, 5 dianthus, poi 5 violacciocche antoniane, dietro a queste 5 dianthus, alternando dianthus e violacciocche a scacchiera, con piante diverse per colori e dimensioni fino in fondo al vialetto. Di fronte alle mie proteste, ha detto che si era limitato a eseguire i miei ordini, sapendo che l'effetto non sarebbe stato buono. Perciò ho ceduto. Nelle bordure rimanenti le ha eseguite secondo lo schema delle prime due. Prima di farle estirpare, stiamo a vedere cosa uscirà fuori quest'estate. Ai principianti conviene essere umili. Se solo potessi zappare e piantare io stessa. Oltre al fatto che è un'attività affascinante di per sé, quanto diventerebbe facile scavare i buchi proprio dove li voglio e metterci le piante che preferisco, anziché impartire ordini che vengono capiti a metà se mi allontano dalle linee segnate da quel lungo pezzo di spago. Nell'esaltazione iniziale per il possesso esclusivo di un giardino e nell'impazienza ardente di far fiorire come una rosa il deserto desolato, una tiepida domenica d'aprile dell'anno passato, mentre la servitù era a tavola e il giardiniere assente per via del giorno e dell'orario, sgattai là fuori con una vanga e un rastrello e mi misi a scavare freneticamente una buca, frantumando le zolle per seminare ipomee clandestine. Accaldata e colpevole, rientrai in casa di corsa e mi fiondai in poltrona dietro a un libro assumendo un'aria languida, appena in tempo per avere salva la reputazione. Perché me ne vergogno? Non è certo un'attività elegante e fa sudare, benché sia un lavoro benedetto. E se nel paradiso terrestre Eva avesse avuto una vanga e la capacità di usarla, ci saremmo risparmiati la vicenda incresciosa della mela. Che donna felice sono! Vivo in un giardino con libri, bambini, uccelli, fiori e un sacco di tempo a disposizione per godermeli. Tuttavia, i miei conoscenti che vivono in città mi vedono prigioniera, sepolta in campagna e chissà cos'altro, tanto che se toccasse loro una vita come la mia, si sentirebbero condannati e urlerebbero a squarciagola da mattina a sera. A volte mi sembra di essere più fortunata dei miei pari, perché so trovare la felicità così facilmente. Credo che se il sole splendesse sempre sarei sempre buona e persino in Siberia riuscirei a godermi la vita se la giornata fosse bella. La vita di città può forse offrire piaceri paragonabili al diletto di una qualsiasi tranquilla serata di maggio, trascorsa da sola davanti alla veranda con il profumo dei giovani larici e la luna che sfiora la cima dei faggi, nel meraviglioso silenzio reso ancora più profondo dal lontano gracidio di rane e dal chiurlare dei gufi. Un maggiolino che sfreccia ronzando vicino al mio orecchio mi dà un brivido di piacere, perché mi ricorda estati ormai passate, e di paura, perché non voglio che mi si impigli nei capelli. L'uomo della collera sostiene che i maggiolini sono creature funeste e dovrebbero essere eliminati. Io invece preferirei che l'eventuale ecatombe avvenisse alla fine dell'estate, per non escluderli da un mondo così bello proprio quando inizia il divertimento. È stato un pomeriggio movimentato. La mia bambina più grande, nata in aprile, ha 5 anni. La più piccola, nata a giugno, ne ha 3. Il lettore perspicace saprà quindi indovinare l'età della bimba di mezzo, nata a maggio. Mentre rochina su un gruppo di altee che crescono in cima all'unico abbozzo di collinetta presente nel giardino, la bimba di aprile, che fino a quel momento se ne stava seduta tutta pensierosa sul ceppo di un albero lì vicino, è schizzata in piedi e ha cominciato a correre all'impazzata, gridando e torcendosi le mani come in preda al terrore. L'ho guardata a bocca aperta chiedendomi che cosa le fosse preso. Poi ho visto che un vero e proprio esercito di vitelli che stavano pascolando in un campo confinante con il giardino erano riusciti a passare attraverso la siepe e stavano brucando pericolosamente vicino alle mie rose Thea e alle mie preziosissime piante. Insieme alla bambina Ea siamo riusciti a scacciarli, ma ormai una bordura di dianthus e gigli era tutta crudelmente calpestata. Una aiuole di rose della Cina era piena di grandi buche e avevano persino cominciato a mangiucchiare una Clematis jackmani, che sto cercando di convincere ad arrampicarsi su un albero. Si dà il caso che il mio tetro giardiniere sia letto malato e il suo aiutante sia impegnato nei vespri. Nella Germania luterana il tè delle cinque o qualcosa che gli somiglia lo chiamano così. Perciò le buche le ha riempite la bambinaia come meglio poteva, con del terriccio, interrando le rose schiacciate e straziate, defraudate per sempre di ogni speranza di gloria estiva, mentre la guardavo avvilita. La bimba di giugno, un soldo di cacio con l'ardimento di un'adulta, ha afferrato un bastone più grande di lei ed è corsa dietro ai vitelli. Siccome il bovaro non si vedeva da nessuna parte, si è piazzata davanti alla mandria agitando il bastone mentre le bestie schierate la fissavano con espressione stupita. Le ha tenute a bada, finché un uomo della fattoria è arrivato con una frusta e ha punito il bovaro che se ne stava appisolato all'ombra. Costui è un ragazzone impacciato, molto più grosso dell'uomo che lo picchiava, ma si è preso il castigo senza battere ciglio, come se la punizione facesse parte della giornata lavorativa. Può darsi che non abbia sentito niente con le brache di cuoio che indossava e credo che meritasse le botte. Tuttavia, per un giovanotto grande e forte come lui, senza cervello, deve essere un lavoro deprimente starsene tutto il giorno a sorvegliare mucche. Solo chi sia provvisto dell'immaginazione di un poeta può farlo di mestiere. Di ritorno dalla nostra impresa, la bimba di giugno e io siamo state accolte dalle altre due con mille abbracci, come se fossimo scampate a un grave pericolo. Poi, mentre bevevamo il tè tranquilla all'ombra del faggio, ha lanciato un'occhiata casuale al verde intrico delle foglie e sul ramo, proprio sopra la mia testa, ho notato un gufetto appollaiato. Sono salita sulla sedia e l'ho catturato senza difficoltà perché non sapeva ancora volare. Come potesse trovarsi su quel ramo è un mistero. È una pallina di piume grigie con la faccia più bizzarra, saggia e solenne del mondo, poverino. Avrei dovuto lasciarlo libero, ma la tentazione di tenerlo finché l'uomo della collera non lo vede, adesso in viaggio, era irresistibile. Tanto più che lui stesso ribadisce sempre quanto gli piacerebbe avere un gufetto per addomesticarlo, Perciò l'ho messo in una gabbia spaziosa che ho appeso a un ramo vicino a quello su cui era appollaiato, certamente non distante dalla madre e dal nido. Ci siamo sedute per continuare con il nostro tè e lì per lì non ho notato altri due battuffoli di piume tra l'erba alta. Persino da quella breve distanza sembravano montagnole di terra erette dalle talpe. Li abbiamo subito messi insieme al fratellino in gabbia. Ora, quando l'uomo della collera tornerà a casa, sarà accolto non soltanto da una moglie ornata dai sorrisi di prammatica, ma troverà anche i tre gufetti che ha sempre desiderato. Certo, mi sembra una cattiveria sottrarli alla madre, ma so che presto li lascerò liberi, forse la prossima volta che l'uomo della collera partirà per un viaggio. Ho messo una ciotolina d'acqua nella gabbia, anche se immagino che non abbiano mai assaggiato l'acqua se non dalle gocce di pioggia sulle foglie del faggio, e che tutti i liquidi indispensabili li ricavino dai topi e dagli altri bocconcini prelibati di cui i genitori amorevoli li riforniscono. Ma l'idea delle gocce di pioggia è più carina. 15 maggio. Come sono stata crudele a rinchiudere quei poveri gufetti in una gabbia anche solo per una notte. Non posso perdonarmelo e giuro che non asseconderò mai più i desideri dell'uomo della collera. Questa mattina mi sono alzata di buon'ora per vedere come se la cavavano e ho trovato la porticina della gabbia spalancata e i gufi spariti. Naturalmente ho pensato che qualcuno li avesse rubati. Un ragazzo del paese o il bovaro di ieri pomeriggio, ma guardando in giro ho scoperto che ce n'era uno appollaiato su un ramo alto e poi con sgomento ho visto che a terra ce n'era un altro, morto. Il terzo era scomparso, forse se ne stava al sicuro nel nido. I genitori devono avere strattonato le sbarre della gabbia finché per caso la porticina si è aperta, poi hanno trascinato i piccoli fin sul ramo in alto. Stanotte soffiava un vento forte che forse ha fatto cadere quello che è morto con il collo spezzato. Oggi nel giardino c'è una vita felice in meno ed è colpa mia. Pensare che è una giornata deliziosa, tiepida, proprio il clima ideale per far crescere e gioire quei teneri esserini. Le bimbe sono molto addolorate, scavano una fossa e intrecciano corone funebri di dente di leone. Avevo appena finito di scrivere queste parole quando ho sentito che stava arrivando qualcuno. Sono corsa fuori per raccontare all'uomo della collera come se fossi sul punto di offrirgli i gufi che ha sempre detto di desiderare e quanto mi dispiaceva che non ci fossero più e quanto soffrissi per la morte di uno di loro. E così via alla maniera prolissa delle donne. È rimasto ad ascoltare finché non mi sono fermata per riprendere fiato. Poi ha replicato: tanta crudeltà mi stupisce. Come hai potuto far soffrire così mamma gufo? Che male ti aveva fatto? Questo discorso mi ha spinto a uscire in giardino convinta come non mai della verità contenuta nelle parole di quella canzone che fa: erano due paradisi. In uno, vivere da soli in paradiso. 16 maggio. Il giardino è il luogo in cui mi rifugio, in cui cerco riparo. Non la casa, regno del dovere, delle seccature, della servitù da esortare, ammonire, delle suppellettili e dei pasti. Là fuori, le benedizioni del cielo mi si affollano attorno a ogni passo. È in giardino che mi addoloro per la meschinità che ho dentro e per certi pensieri egoisti che sono assai peggiori di come li percepisco. È là che tutti i miei peccati e le mie scempiaggini sono perdonati, là che mi sento protetta e a casa con i fiori e le erbacce come amici e gli alberi come amanti. Quando sono contrariata corro da loro a cercare conforto e quando sono arrabbiata senza motivo da loro trovo soluzione. Quando mai una donna ha avuto così tanti amici? Amici che non cambiano, sempre pronti ad accogliermi e a riversare in me pensieri allegri. Siamo tutti figli felici di un unico padre. Perché solo io, loro sorella, dovrei essere meno contenta e gioiosa di loro? Quando infuria il temporale e tutti corrono a ripararsi in casa, io fuggo fuori. I temporali non mi piacciono per nulla, comincio ad averne paura ore prima che si scatenino, perché li sento sempre arrivare. Tuttavia è strano che vada a rifugiarmi in giardino. Là mi sento meglio, più protetta, più coccolata. Quando tuona, la bimba di aprile dice: ecco che, lieber Gott, rimprovera di nuovo gli angeli. Una volta era di notte e veniva giù il diluvio. La bimba si è proprio arrabbiata e ha domandato perché Liberco non fa le sue sfuriate di giorno per non svegliarla quando dorme come un sasso. Tutte e tre parlano una fantastica mescolanza di tedesco e inglese e contaminano la loro lingua madre con parole inglesi nel mezzo di una frase in tedesco. Mi fanno pensare alla giustizia temperata dalla misericordia. Oggi siamo andate a cogliere le primule odorose in un boschetto che viene enfaticamente definito Hirschwald. Forse è lì il felice territorio di caccia di innumerevoli cervi che nelle serate d'autunno vengono qui a sfidarsi con bramiti che riecheggiano nel silenzio e fanno piacevolmente rabbrividire l'ascoltatore solitario. Spesso, nelle serate di settembre, vengo qui a passeggiare e mi siedo sul tronco di un albero caduto per ascoltare affascinata i loro richiami rabbiosi. Sedute sul prato, abbiamo fatto ghirlande di primule. Le bambine non avevano mai visto una cosa simile, né immaginato nulla di tanto delicato e bello. Lo Hirschwald è un boschetto arioso di betulle bianche, ricco di molli spazi erbosi costellati di fiori, ed è attraversato da un amabile ruscello serpeggiante che a giugno si orna di giargioli acquatici. Sogno di farmi costruire una casetta proprio là, con le margherite che arrivano fin sulla soglia e nessun sentiero per arrivarci. Una casetta grande abbastanza per me e una delle bambine, con una clematide viola all'esterno. Due stanze, camera e cucina. Che paura avremo di notte e che assoluta felicità proveremo di giorno. Conosco il punto preciso dove voglio che sia, rivolta a sud-est, in modo da ricevere l'allegria del mattino, e vicino al ruscello per lavare i piatti tra i giaccioli. Se ci andasse di stare in compagnia, ogni tanto potremmo invitare le altre bambine per il tè e offrire loro fragoline di bosco sui piatti di foglie di ipocastano, ma non vorremmo nessun altro di meno innocente di un bimbo e capace di appagarci con cose altrettanto semplici a oscurare la radiosità della nostra casetta piena di sole. Anzi, credo proprio che agli adulti assennati non interesserebbe neppure. Le persone assennate, prima di riuscire a godersi la vita, hanno talmente tante esigenze da soddisfare. Ed io mi sento perennemente in dovere di scusarmi con loro perché posso offrire soltanto ciò che amo di più. Sono contrita e vergognosa di sapermi accontentare così facilmente. Qualche giorno fa sono andata a un ricevimento nella città più vicina. Ci ha voluto tutto il pomeriggio per arrivare fin là. E dopo cena le signore mi hanno chiesto come ho fatto a sopportare l'inverno, tagliata fuori da tutto e da tutti, e talvolta si porta sotto la neve per settimane intere. Ah, questi mariti, ha sospirato una matrona, scuotendo la testa con aria tetra. Rinchiudono le mogli perché a loro va bene così e se ne infischiano di quanto soffrono quelle poverine. Siccome la matrona esercita un grande potere a livello locale, le altre hanno sospirato e scosso la testa. Una ha cominciato a raccontare di come un marito di quelli tremendi abbia portato la giovane moglie in campagna e ve l'abbia segregata, nascondendone la bellezza e le doti nel modo più crudele. E di come, dopo parecchi anni passati a piangere, procreare eredi, la donna sia fuggita. Era una notizia fresca, con un tizio inqualificabile, forse il domestico, il panettiere, insomma, un tipo del genere. No, ma io sono felice, davvero, ho cercato di dire non appena ho avuto modo di inserirmi nella conversazione. Ah, una brava mogliettina che fa buon viso a cattiva sorte, ha replicato la matrona, dandomi un colpetto amichevole sulla mano senza smettere di scuotere la testa con espressione tetra. Lei non può essere felice se la obbligano a passare l'inverno completamente sola, ha dichiarato un'altra signora, moglie di un militare altolocato e non abituata a essere contraddetta. E invece lo sono. Ma come può alla sua età? Non è proprio possibile. E invece sì. Suo marito dovrebbe portarla in città d'inverno, ma io non voglio essere portata in città e non farle sprecare i suoi anni più belli condannandola a una vita da reclusa. Ma a me piace starmene reclusa. Questa solitudine non è una cosa buona. Io non sono sola e non ne verrà fuori nulla di buono. Ha cominciato a inalberarsi. Quest'ultima conversazione è stata seguita da un coro di no davvero, accompagnato dai soliti scuotimenti di testa. L'inverno mi è piaciuto tantissimo, ho insistito io quando si sono placate un po'. Sono andata in slitta e ho pattinato e poi c'erano le bambine e scaffali pieni di, stavo per dire libri, ma mi sono fermata. Leggere è un'occupazione maschile. Una donna che legge spreca il suo tempo in modo riprovevole. Avrei potuto dir loro della felicità che provo quando il sole splende sulla neve e del piacere intenso che mi danno i giorni di brina, ma come parlarne? Venire qui è stata una mia scelta, ho continuato, e mio marito l'ha fatto solo per farmi piacere. Che brava mogliettina! Ha ripetuto la condiscendente matrona, dandomi un altro colpetto sulla mano con l'aria di chi ha capito tutto. Una mogliettina d'oro. Però, mia cara, non permetta a suo marito di fare sempre come gli pare. L'inverno prossimo segua il mio consiglio e insista a farsi portare in città. Detto ciò, compiaciuta di aver stabilito che il mio destino stava in attesa dietro l'angolo, magari celato dietro i bottoni di ottone apparentemente inoffensivi della divisa del domestico che mi aspettava nell'atrio con il mio mantello, le signore si sono messe a discutere delle rispettive cuoche. Ho riso mentre tornavo a casa e poi ho riso ancora per la soddisfazione quando siamo arrivati, percorrendo il silenzioso viale alberato fino alla mia graziosa antica dimora. In biblioteca tutte e quattro le finestre erano aperte per far entrare il chiaro di luna e i profumi della notte. Ho passato in rassegna gli scaffali che conosco bene e nel silenzio popolato, soltanto da lievi suoni sereni, ho capito che in questo luogo potrò sempre leggere, fantasticare o starmene del tutto oziosa come più mi aggrada, senza che nessuno mi disturbi mai. Con che senso di riconoscenza ho ringraziato il destino che mi ha condotto qui e mi ha dato un cuore per comprendere la mia beatitudine. Destino che mi ha salvato dal genere di vita che avevo appena intravisto, una vita passata ad annusare le cene degli altri, con nelle orecchie il chiasso dei litigi della servitù, le ciarle e i ricevimenti come unici passatempi. Ma devo confessare che a volte, davanti a queste pompose signore munite di monocolo che esaminano la mia casa nel dettaglio, mi sono sentita annichilire. È capitato che, dissezionando freddamente dalla comoda distanza della finestra aperta tutto ciò che io ho tanto apprezzato degli interni, una di queste matrone abbia espresso compassione per la mia solitudine e, quando ho dichiarato che a me invece piaceva, ha mormorato: assai modesto. In quell'occasione mi sono davvero vergognata delle mie parche esigenze, ma è durato solo un momento. E solo perché quel monocolo sembrava volermi incenerire. In fondo lo spirito della sua proprietaria è lo stesso che alberga nelle mie domestiche, ragazze per cui la felicità consiste nel vivere in città con persone come loro e ritrovarsi per bere birra e ballare la domenica pomeriggio. La frenesia di stare sempre in compagnia e la paura di rimanere soli, sia pure per poche ore, non la capisco proprio. Io riesco a intrattenermi benissimo con me stessa per settimane di fila senza quasi accorgermi di essere sola, se non per il senso di pace che mi pervade. Non che non mi piaccia avere ospiti per qualche giorno o persino per settimane, basta che siano poco impegnativi come me e si accontentino di gioie semplici. Per essere felice, chi viene a trovarmi deve possedere una ricchezza interiore. Se è una creatura vacua, dalla testa e dal cuore vuoti, troverà tutto alquanto noioso. Come mi piacerebbe avere la casa piena di gente se trovassi persone capaci di divertirsi. Accoglierei e poi congederei tutte con pari cordialità, perché a onor del vero devo confessare che vederle arrivare mi dà altrettanto piacere che vederle andar via. Certe giornate, particolarmente meravigliose, come oggi, per esempio, vorrei godere di questa bellezza insieme a qualcuno. Stanotte ha piovuto e il giardino sembra stia cantando. Tutto il giardino. Non soltanto gli uccelli instancabili, ma anche le piante vigorose, l'erba e gli alberi felici e i cespugli di lillà. Oh, quei lillà! Sono in piena fioritura. Il giardino è saturo del loro profumo. Di lillà ne ho colti abbracciate. Coglierli è un piacere squisito e ogni coppa e vaso della casa trabocca della loro gloria viola. La servitù crede che ci sarà una festa e si dà un gran da fare mentre io passo di stanza in stanza per ammirare tutta questa dolcezza che si diffonde dalle finestre spalancate affinché il profumo che viene dall'interno si unisca a quello del giardino. Pian piano la servitù scopre che non ci sarà nessuna festa e si chiede perché la casa debba traboccare di fiori solo per una donna. E io bramo sempre più intensamente uno spirito che mi si affine. Tutta questa bellezza solo per me. Mi sembra una grande ingordigia. Purtroppo Gli spiriti affini sono rarissimi e tanto varrebbe disperarsi per avere la luna nel pozzo. Certo, il mio giardino è pieno di amici, solo che sono privi di parola.